Sono un bluff, all'appello il fallimento. Troppo spento per la musica, lento, non sento niente che mi dia tormento. L'hip hop non è morto, è in spegnimento. Tento una rianimazione all'ultimo secondo. Non posso farcela in questo mondo. Non sento un vero flow da nobiltà di strada. Adesso solo merda mi rovina la serata. Parlano di fatica dentro un Lamborghini, con fighe di legno che gli fanno bocchini. Non è rap, è roba commerciale, falsa, vecchia, eppure fatta male. Solo pochi eletti nell'Olimpo con gli dèi. Quelli che ben pensano non sono fatti miei. Dentro alla scatola c'è un sogno eretico, profetico, di sicuro impatto scenico. Figli del caos nelle strade di città, l'ultimo testimone di questa realtà. Salviamo i salvabili, evitiamo il tradimento. Mezza verità, mezzo godimento. Solo pochi eletti nell'Olimpo con gli dèi. Quelli che ben pensano non sono fatti miei. Dentro alla scatola c'è un sogno eretico, profetico, di sicuro impatto scenico. I figli del caos nelle strade di città, l'ultimo testimone di questa realtà. Salviamo il salvabile, evitiamo il tradimento. Mezza verità, mezzo godimento. Arrivi e partenze, una giostra in movimento. Come un uragano spazza via il tempo. Sento un crescendo che sale da dentro. Odio pieno, unico sentimento. Con una penna nella capitale scrivo il mio destino, ma lo faccio male. Fin qui tutto bene, almeno per adesso. Questa è la fine di tutto questo. Senza tregua e senza pentimenti volo via dagli sbattimenti. Questo è il mio saluto, passo e chiudo. Un omaggio sentito e dovuto. Solo pochi eletti nell'Olimpo con gli dèi. Quelli che ben pensano non sono fatti miei. Dentro la scatola c'è un sogno eretico, profetico, di sicuro impatto scenico. I figli del caos nelle strade di città, l'ultimo testimone di questa realtà. Salviamo il salvabile, evitiamo il tradimento. Mezza verità, mezzo godimento. Solo pochi eletti nell'Olimpo con gli dèi. Quelli che ben pensano non sono fatti miei. Dentro la scatola c'è un sogno eretico, profetico, di sicuro impatto scenico. I figli del caos nelle strade di città, l'ultimo testimone di questa realtà. Salviamo il salvabile, evitiamo il tradimento. Mezza verità, mezzo godimento.